Se vogliamo andare al mare o in montagna a camminare, apri il navigatore, solo dopo avvia il motore. Segui le sue indicazioni, senza fare deviazioni. Guida come un cagnolino che non sa qual è il cammino. Ma se perde il segnale, vabbè, perduto senza GPS, l'orientamento non sa più cos'è. Non sa nemmeno senza GPS dove sta andando e nemmeno perché. Papà è finito senza GPS nel mio lago asmico insieme a me. Non torneremo senza GPS a casa nostra che chissà dov'è. Se vogliamo fare spese al mercato del paese, configura il cellulare che gli dice dove andare. Ha salvato pure il luogo del suo posto di lavoro, dal dottore o dal fornaio, anche del suo benzinaio. Ma se perde il segnale, vabbè, perduto l'orientamento non sa più cos'è. Non sa nemmeno senza GPS dove sta andando e nemmeno perché. Papà è finito senza GPS nel mio lago asmico insieme a me. Non torneremo senza GPS a casa nostra che chissà. Poi non va, proverà a spegnere e riaccendere. Vabbè, perduto senza GPS, l'orientamento non sa più cos'è. Non sa nemmeno senza GPS dove sta andando e nemmeno perché. Vabbè, finito senza GPS nel mio lago asmico insieme. Papà si è perso.